versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 in questo primo aprile, Sant'Ugo, auguri, si chiama Ugo e felicitazioni a tutti coloro che hanno avuto dei begli scherzi oggi per il primo di aprile. Se invece qualcuno se l'è presa e si è dimenticato che oggi quasi tutto è lecito naturalmente, ma non il tema di cui ci occupiamo oggi in trasmissione, perché è uno di quei temi su cui bisognerebbe che ci organizzassimo tutti meglio e soprattutto voi che siete a caso in macchina, insomma siete in ascolto, di che cosa parliamo oggi e quindi decidete se intervenire telefonando all'800240024 e le vostre opinioni come sempre al 349-238-6666. Parliamo di una delle maniere con la quale instancabilmente i politici eletti negli organi rappresentativi, oggi parliamo innanzitutto di consigli comunali, quindi il livello rappresentativo e amministrativo più vicino a ciascuno di noi, quello nei confronti del quale probabilmente se decidessimo di dedicare un po' di tempo a un'azione di vigilanza civile dal basso saremo in grado anche di svolgere pressioni efficaci qualora appunto si decidesse di farlo, ebbene è il modo nel quale nei consigli comunali i politici si procurano molti soldini oltre a quelli ordinari previsti per il compenso delle loro attività di rappresentanti pubblici, e questo modo è quello di moltiplicare per centinaia e centinaia di volte le riunioni delle commissioni comunali, per le quali sono previste naturalmente dei gettoni di presenza. Il fenomeno è diventato una delle maniere per integrare, per così dire, il controllo che in questi anni ha iniziato, io dico solo ha iniziato a diventare un pochino più penetrante sulle altre modalità, diciamo di arrotondare i compensi dei politici, perché le indagini che sono scoppiate in tutte le regioni italiane sulle spese pazze, di come venivano impiegati le risorse attribuite ai gruppi consiliari da una parte, dall'altra le pressioni per che sono poi sfociate nella riforma del finanziamento pubblico ai partiti. Ricordiamo che fino al 2017 gradualmente anno dopo anno diminuisce l'entità del finanziamento pubblico, poi dovrebbe addirittura essere integralmente sostituito dal meccanismo di autofinanziamento dal basso del 2 per 1000, e tuttavia se avete letto i giornali in queste settimane capite che i partiti si stanno organizzando per ripristinare il finanziamento pubblico, perché per il momento gli italiani che hanno pochissima fiducia nei partiti fanno pochissimo uso della libera scelta del 2 per 1000 per finanziarli direttamente, e i partiti dicono: ma così volete per forza che rubiamo, dobbiamo restituirlo il finanziamento pubblico. Dall'altra parte è scoppiato anche il filone delle indagini che riguardano le fondazioni politiche proprio in questi giorni, l'avete letta forse qualcuno di voi l'intervista sdegnata di onorevole Massimo D'Alema, ex politico ma insomma beneficiario di alcuni acquisti delle sue produzioni e di finanziamenti alla sua fondazione Italiani Europei, e abbiamo riscoperto quel che sappiamo da sempre, cioè che le fondazioni che i partiti, che gli uomini di partito a cui danno vita non hanno obbligo naturalmente alcuno di dichiarare chi le finanzia, e quindi non siamo in grado di capire in cambio di che cosa poi si finanziano queste fondazioni che ungono i politici. Ecco, a tutto questo quadro di fondo, virgola, al quale si aggiunge la pubblicazione dopo un anno ieri sul sito del Tesoro dei famosi 25 PDF della proposta di taglio di spesa che erano state elaborate un anno fa dall'allora commissario Cottarelli, e una di queste riguarda, andatele a leggere, tagli per 700 milioni proprio ai costi della politica, che Cottarelli era in grado, se gli avessero dato retta invece che rimandarlo in America con tanti saluti, di introdurre fin dal 2014, e beh, li troverete dei giudizi come resti molto opaca l'intera materia di tutti i soldi che, pubblici che vengono movimentati verso i partiti politici e i loro esponenti negli organi elettivi. Ecco, questo è il quadro di fondo, ma in questo quadro di fondo, poiché con mia sorpresa gli italiani continuano ad organizzarsi molto poco dal basso per controllare che cosa avviene nei loro comuni, naturalmente l'informazione fa la sua parte e tenta di tirare fuori un po' di dati da questa opacità. Ecco, e oggi abbiamo proprio un ospite che ha rimesso a punto l'andamento della gettonopoli, cioè dello scandalo dei gettoni attraverso la moltiplicazione delle commissioni consigliare nei consigli comunali, soprattutto nella regione Sicilia, perché è con noi Giuseppe Pipitone, giornalista del Fatto Quotidiano, che ringrazio di essere collegato con noi. Buon pomeriggio, Giuseppe. Buon pomeriggio a voi. Allora, innanzitutto, Giuseppe, consentimi di dire con chiarezza a chi ci ascolta: telefonateci all'800240024, perché, per esempio, se avete votato Movimento 5 Stelle e se partecipate, oltre ad aver votato anche ai suoi meetup, mi spiegate una cosa: perché la vostra azione non è mirata soprattutto al controllo di queste cose nei comuni in cui vivete? Ecco, in particolare lo chiedo a voi dei 5 Stelle, perché siete convintissimi, questo è il modello che proponete, no? Di controllo dal basso. E applichiamolo innanzitutto a gettonopoli e a tante altre cose, alle partecipate locali e controllate dei comuni, a quanto perdono e così via. Il comune dovrebbe consentirvi di essere più attivi, sempre che lo vogliate. Quindi io mi rivolgo non solo a voi dei 5 Stelle, elettori e militanti, ma innanzitutto a voi, perché forse questo è un esempio, quello di cui parliamo oggi, in cui potreste essere più incisivi con risultati concreti per il bene di tutti. Ma andiamo a quello che ha scritto Giuseppe Pipitone sul Fatto Quotidiano. Allora, Giuseppe, qual è il quadro che emerge dai capoluoghi di provincia, le province abolite per finta in Sicilia, ce ne siamo già occupati, questa gettonopoli perché è particolarmente allarmante? Ma perché praticamente i consigli comunali si sono trasformati appunto in enti che funzionano semplicemente per produrre un gettone di presenza dei consiglieri. Sembrerebbe, diciamo, detta così, in questo modo quasi, diciamo, populismo, no? Ma non è così, perché se uno va a vedere i vari verbali delle riunioni dei consigli comunali, no? I consiglieri comunali sono pagati a gettone, vengono pagati ogni volta che il consiglio comunale si riunisce. Se uno si va a spulciare una serie di verbali dei consigli comunali siciliani, si accorge che le commissioni, per esempio del consiglio comunale di Enna, si riuniscono il 13 di agosto, quando ad Enna ci sono circa 40 gradi e la città è praticamente deserta perché la gente fugge verso il mare, per fare che? Per discutere del regolamento interno alle associazioni locali che devono chiedere un immobile al comune, regolamento che poi si scopre essere addirittura scaduto l'anno prima. Quindi a che cosa è servita quella riunione? Essenzialmente a nulla, però costa tra l'altro diverse decine di migliaia di euro alle casse pubbliche. Diciamo, mentre eravamo distratti dalla famigerata casta nazionale, mentre il Parlamento regionale siciliano, uno forse dei più costosi d'Europa, gli sprechi si sommavano ad altri sprechi, nessuno si era accorto che i consigli comunali minori, no? Anche quelli delle cittadine più piccole, non devi per forza essere una grande città, cioè Siracusa è una delle province più piccole della Sicilia e riesce a spendere quasi un milione di euro soltanto per pagare lo stipendio ai suoi consiglieri, che riescono peraltro a riunirsi varie volte, uscire la media di 3 volte al giorno, 1200 riunioni in un anno, significa riunirsi 3 volte al giorno, compreso Natale e compreso Ferragosto. Che cosa hanno portato, diciamo, queste riunioni che prolificano, diciamo, all'infinito? Essenzialmente nulla. Allora, tu dicevi, hai citato Enna, nel tuo articolo scrivi: a Enna naturalmente hanno avuto anche l'abitudine i consiglieri di tagliarsi i gettoni di presenza, scendendo da 56 a 51 euro. Peccato però che si sia moltiplicato il numero delle riunioni, appunto 720 l'anno, e così naturalmente è aumentato l'esborso. Stiamo parlando dei soli gettoni per il solo comune di Enna, ed è aumentato fino a 360.000 euro nel 2014. Allora, in realtà esiste una norma, sia pur nell'autonomia speciale siciliana, sulla quale non voglio ripetere quello che i miei ascoltatori sanno, la mia opinione è che andava abolita nel quadro del nuovo titolo quinto, invece naturalmente resterà tutto così com'era. La mia opinione è che l'autonomia speciale siciliana ha perso molti anni il segno che aveva storicamente quando nacque, oggi è diventato uno scudo di sprechi e clientelismi micidiali. Però detto questo, esistono delle norme in Sicilia per le quali ai comuni si può porre un limite e di quale tipo, oppure semplicemente ogni consiglio comunale può fare come vuole? Ma tecnicamente l'ammontare del gettone, così come pure lo stipendio di sindaco e assessori, è deciso a livello regionale. I consigli comunali però possono in autonomia aumentarsi il gettone di presenza. C'è una storia carina che non è inserita nel mio reportage sui consigli comunali di oggi, ma l'ho scritta qualche tempo fa, sul consiglio comunale di Trapani. Trapani, come la maggior parte dei comuni italiani, è un comune che sull'orlo del dissesto, del rosso in bilancio. Qualche mese fa i consiglieri comunali trapanesi hanno votato chiaramente con la maggioranza assoluta una mozione che prevedeva l'aumento del 30% del gettone di presenza, e sono auto-aumentati lo stipendio. Questo mentre appunto viviamo un momento, un poco fa sentivo che citavi Cottarelli, no? Un momento di gigantesca difficoltà sociale, soprattutto milioni di italiani, i tagli, voglio dire, la cinghia l'hanno tirata, ma di molti buchi tra chi ha perso il lavoro e chi ha perso il reddito pro capite. Quindi voglio dire, però lì invece i politici trovano il modo per risolvere la questione diversamente. Tu citi, tra i tanti esempi che fai oggi nel tuo reportage, il fatto che per esempio i 50 consiglieri eletti nel comune di Palermo hanno diritto a un gettone per ogni riunione consigliere di 156 euro, cioè più che a Milano, cifra che è seconda soltanto al comune di Verona, dove però c'è un limite massimo del rimborso mensile per i consiglieri che lì non c'è, quindi a Palermo si può guadagnare fino a 3.260 euro al mese solo per questo. Sì, la cosa curiosa è appunto che Palermo costa ogni anno, soltanto di stipendio per consiglieri, 5.200.000 euro. Milano, che è circa il triplo più grande, costa 1 milione di meno. Vorrei capire quanto lavorano in più i consiglieri palermitani rispetto a quelli milanesi, e soprattutto non è un mistero che le condizioni economiche del capoluogo siciliano siano sicuramente peggiori di quelle dei milanesi, no? E intanto i consiglieri guadagnano di più. Perché? Perché si sono auto riconosciuti un gettone di presenza così alto, 156 euro. Ma la cosa interessante, se usciamo fuori dalla mera cifra, è come vengono motivate, che cosa fanno i consigli comunali. Oggi essenzialmente nulla, perché l'attività amministrativa è tutta nelle mani dei sindaci e delle giunte. I consiglieri comunali, come le commissioni dei consigli comunali, sono praticamente enti totalmente inutili. Ci sono verbali online di comuni capoluogo come Enna eccetera, in cui le commissioni si riuniscono per leggere il piano regolatore, perché diavolo dovrebbero leggere il piano regolatore? Però quella commissione verrà pagata 55, 65, 70 euro, dipende. Poi bellissimo, sono esilaranti anche gli orari di entrata e di uscita, no? C'erano commissioni che iniziavano alle ore 11, alle ore 11:10 il verbale veniva chiuso. Perché la lettura era stata aggiornata, per così dire. Ma com'è possibile che comuni anche piccoli, tu fai l'esempio tra i tanti, Marsala, 99 euro a seduta. Allora, com'è possibile che ci siano dei divari per cui i capoluoghi di provincia sono la metà in termini di euro a seduta e qui sono il doppio a Marsala? Perché seguono gli abitanti, è direttamente proporzionale agli abitanti. Marsala, anche se non è capoluogo di provincia, fa quasi 100.000 abitanti, mentre Agrigento 50.000, per esempio. Relazione al numero di abitanti, così come i consiglieri sono in relazione al numero di abitanti. Però il fatto è questo, posso capirla come razio, però il fatto che siano ubiqui, come dici tu, cioè che dai verbali si capisce che i gettoni li incassano essendo contemporaneamente presenti in riunioni di commissione che si tengono contemporaneamente, questo almeno dovrebbe essere una violazione di norma, oppure no? Infatti il caso che hai citato tu è a Mister Bianco, sono tutte tutti questi, diciamo, queste pseudo violazioni o presunte violazioni sono oggi oggetto di indagine da parte della magistratura. Oh. È chiaro, è scoppiato soltanto qualche mese fa il caso, non oso immaginare cosa è successo negli anni scorsi. Oh, e quindi indagini ci sono? Sì, a Siracusa, così come pure ad Agrigento, certo. Ovviamente si sono posti il problema: come si fa un consiglio comunale a riunirsi tre volte al giorno, 365 giorni l'anno, Natale, Ferragosto, domenicali e festivi inclusi? Ora, tu poi aggiungi un'altra cosa a cui io effettivamente, che pure mi picco di occuparmi di questi guadagni, non avevo mai pensato, e quindi ti ringrazio perché non si finisce mai di imparare, perché non sono solo i politici eletti a trovare il modo di moltiplicarsi in questo modo e con questi criteri così discutibili le loro entrate, ma pure le aziende. Sì, perché c'è una legge regionale diffusissima in Sicilia, non solo in Sicilia, però poi lo vedremo dopo, che prevede che per ogni giorno di assenza dal posto di lavoro del consigliere eletto, quel giorno di paga deve essere rimborsato al datore di lavoro, ovviamente solo se è privato, se è pubblico, certo, no, certo, dall'amministrazione. È successo così che negli anni scorsi parecchi consiglieri comunali eletti al Consiglio Comunale di Palermo, come per magia, da disoccupati o dai lavori a tempo determinato venivano assunti esattamente il giorno dopo l'elezione, ma non bisogna andare soltanto nei piccoli consigli o a Palermo. Il presidente del consiglio in carica, Matteo Renzi, sapete tutti, è un caso, diciamo, che è esploso alcuni anni fa, fu assunto come dirigente dalla società di famiglia dopo essere diventato sindaco. Esattamente, sì. Perché così naturalmente c'era anche lo sgravio contributivo, per così dire, pubblico. Ora, su questa materia ti faccio la domanda, torniamo, mi dai la risposta tra 60 secondi perché abbiamo le informazioni stradale. Ma si registrano in Sicilia iniziative particolari di qualche formazione politica, di qualunque sia la sua collocazione sull'asse destra o sinistra, o sono le procure che si devono svegliare mentre la politica si era voltata tutta integralmente dall'altra parte? C'è qualche eccezione? La risposta tra 60 secondi, intanto strada. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:48, primi 22 secondi, con Giuseppe Pepitone del Fatto Quotidiano, che ha scritto un bel reportage, lo trovate anche sul sito del Fatto Quotidiano, il fatto.it, diretto da Peter Gomez, sulla moltiplicazione delle risorse che entrano in tasca del consigliere comunale, soprattutto in Sicilia. La cosa poi non riguarda solo la Sicilia, con la moltiplicazione delle riunioni dei consigli e delle commissioni consigliere. Abbiamo un po' di sms da parte di alcuni di voi, e quindi ne scelgo alcuni per darne lettura. C'è Giuseppe Sannazzaro, che è un vice sindaco di un mini comune, che dice: non vogliamo vedervi rubare ma vedervi sparire. Immagino che ce l'abbia con i colleghi che altrove se la passano diversamente da quello che fa lui. E poi abbiamo Francesco, che è un consigliere comunale a Besana in Brianza, e che prende, appunto, ci comunica, 18,08 euro lordi a consiglio, che sono circa 10-12 l'anno. I consigli durano in media dalle 20:45 alle 2:30 di notte, 0 euro per le commissioni di cui fa parte, bilancio eccetera eccetera, e 0 euro per tutto il resto. E quindi dice: non fate, non generalizzate. Ma noi non stiamo generalizzando, e mille volte abbiamo detto che in moltissimi piccoli comuni italiani è praticamente una missione civile fare l'amministratore, per quello che si firma assumendosi la responsabilità degli atti e per quel poco che si prende. Ma qui stiamo documentando che naturalmente l'Italia è diversa, e bisogna avere gli occhi aperti su dove invece le cose vanno, come si vede, diversamente dai numeri che stiamo citando dei consigli comunali siciliani. Ripeto, non riguarda solo la Sicilia la faccenda. Allora, un po' di telefonate, cominciamo con Lorenzo da Palermo. Prego, Lorenzo. Sì, buongiorno. Guardi, io ho esplorato questa materia per lavoro, per conto della regione, e le devo dire che il reportage del giornalista che le sta intervistando ha alcune inesattezze. Intanto anche in Sicilia c'è un limite alla percezione dei compensi per i consiglieri comunali. Al percepimento. Esattamente, al percepimento, scusi, ed è un terzo rispetto all'indennità di sindaco, qualunque sia il numero di riunioni fatti. Lei vedrà infatti che su Agrigento, Siracusa, eccetera, le inchieste si concluderanno tutte quante con un nulla di fatto. Perché, peraltro, sì, perché quel limite è rispettato. È rispettato. dice bene il giornalista quando fa riferimento al fatto che si aumentano gli stipendi perché si fanno assumere da ditte private. Qualcuno lo fa un mese prima delle elezioni, qualcuno durante, però dal punto di vista normativo non hanno violato la norma. Però la cosa che volevo sottolineare è questo, perché io su questo ho fatto una lettera aperta su Repubblica, che mi hanno pubblicato Repubblica Locale. In Sicilia tutto questo è disciplinato dalla legge 30, che fissa i criteri, ma la misura dei compensi è stabilito con un decreto del Presidente della Regione. Nel 2001 o 2002, adesso non ricordo precisamente, lo fece Cuffaro da Presidente della Regione, stabilendo ad esempio che il sindaco di Palermo aveva, non so, 9.000 euro e via via a scalare tutti gli altri. Quindi oggi, se si volesse in un solo momento ridimensionare il tutto, si potrebbe. Un provvedimento di carattere amministrativo, perfetto. Quando lei dice, Lorenzo, che per anni ha ispezionato, ma perché faceva l'ispettore regionale su questo, no? Sì, anche perfetto. Quindi tutta, ripeto, l'articolo lo conosce. Volevo dire un'altra cosa, sì. Peraltro la logica di questi compensi qual era? Era quella che si dava maggiori competenze ai comuni, tant'è che molti sindaci e molti consiglieri comunali ritengono persino illegittimo che i parlamentari nazionali percepiscono tutto questo non avendo contatto col territorio in quanto nominati. Quindi, però Lorenzo, quando poi si assiste a 1200 sedute l'anno, i dubbi vengono, ecco, per così dire. Ivan da Siracusa, prego Ivan. Sì, salve, buongiorno. Salve. Senta, in merito al fatto che lei diceva poc'anzi, invitando i cittadini, sì, del Movimento 5 Stelle che devono oltre votare e informarsi maggiormente e controllare, ebbene, lei ha detto un'inesattezza, o meglio, il dottor Pipitone sa benissimo da dove ha preso quei dati di quell'inchiesta. Sono tutti dati che sono stati sollevati dai cittadini, di cui io faccio parte, un gruppo di cittadini dei Meetup 5 Stelle, e siamo noi che abbiamo tirato fuori quei numeri, siamo noi che abbiamo tirato fuori le 1201 commissioni, siamo noi che ci siamo rivolti a Striscia, all'Arena, siamo noi insomma che ci siamo, abbiamo fatto le notti a gennaio. Ivan, io non solo lo sapevo, ma l'esattezza non l'ho detta perché speravo che faceste questa telefonata, perché la mia idea è che quello che avete fatto è esattamente il prototipo, il modello, l'archetipo da seguire, da adottare, dovrebbero farlo tutti. Quindi il mio plauso, Ivan, che non è un plauso alla scelta politica, ma è al metodo da seguire, perché dal basso queste cose vanno controllate. Io ringrazio i cittadini che ci mettono il tempo e la voglia di mettersi a fare questi controlli, perché poi l'informazione si alimenta grazie a questo, ma voi lo fate in quanto cittadini e contribuenti, e bisognerebbe che questo fosse l'esempio da seguire. Quindi non solo lo sapevo, ma ci contavo. E questa telefonata non era organizzata, per così dire, però è giusto riconoscere che c'è chi queste cose le fa e che anzi le propone come un modello. Poi io sulla scelta nazionale la penso diversamente, però questo è un ottimo modello da seguire. Alessandro da Bologna, come la pensa? Salve, io, siccome le commissioni in realtà hanno ovviamente una importanza propedeutica al lavoro consigliare, sì, dopo, giusto? Secondo me è importante ovviamente controllare queste anomalie, perché effettivamente sono un po' troppe in certe situazioni, però sarebbe importante anche controllare chi veramente poi partecipa alle commissioni stesse, cioè secondo me trovare un sistema per cui chi partecipa poi alle commissioni le viva anche e ci partecipi attivamente, perché altrimenti il problema non è tanto il quanto le faccio, anche se è un problema, ma anche il come le, soprattutto, le utilizzo, certo. Perché altrimenti, cioè, la cosa che io mi auguro, a prescindere da tutte le iniziative che vengono svolte di controllo, che sono sicuramente meritorie, è trovare appunto un sistema anche meritocratico di chi partecipa, esatto, a questa attività pubblica. Sì, molto giusto. Ad oggi, cioè, altrimenti possiamo fare tutti i controlli che vogliamo, ma poi... Ma li risolviamo più in demagogia che in capacità di saper apprezzare anche poi le cose qualitative. Alessandro ci richiama su un punto che è giusto, però io volevo tornare a Giuseppe Pipitone, per sapere se condivide l'impressione dell'ispettore che ci ha chiamato da Palermo dicendo: ma tanto le indagini faranno un buco nell'acqua, qui le norme regionali sono tutte rispettate. Ma intanto l'ispettore, volevo dire che è noto che ci sono dei limiti, e nel mio articolo sottolineo il limite, per esempio a Palermo è di 3.200 euro per ogni consigliere, calcolati in base alle percentuali, diciamo, non penso che sia un'inesattezza, visto che addirittura la riporto nel mio pezzo. Certo. Seconda cosa, ovviamente non possiamo pronosticare come finiranno le indagini della magistratura. È un fatto che all'oggetto dell'indagine della magistratura non è tanto quanto percepito da ogni consigliere, ma se effettivamente queste commissioni ci sono tenute, questo è il punto. In quel caso sarebbe un reato, perché sarebbe un reato di causa. E non c'è nessun decreto di nessun presidente che può legittimarlo, ma è ovvio, perché 1200 sedute l'anno, cioè non tentiamo ogni volta di chiuderci gli occhi e di non vedere che ci stanno fottendo, cari ascoltatori e cittadini. Grazie a chi come Giuseppe Pepitone ascolta i cittadini dal basso. Continuate intanto con Radio 24, appuntamento come a domani.